Benvenuti a tutti quanti, potete accomodarvi, sono Luigi per chi non mi conosce. Io incomincio così perché mi dà tanta speranza questa seconda fila che qui oggi è bella compatta. Sono praticamente una parte dei B1 che sono i preado, insomma i ragazzini della scuola media della nostra chiesa e li ho visti belli tutti così in prima, in seconda fila, domenica prossima in prima fila, quindi mi dispiace voi un po' dietro, ok? Non volevo dire un po' più grandi, un po' più adulti, ma voi avanti così. La Chiesa vi vede crescere in statura, ma anche nella vostra relazione con Dio. Sono felice di vedervi, mi dà tantissima speranza. Perché dico già due volte speranza? Perché oggi parleremo tantissimo di speranza. Se parlo un attimo ai genitori che abbiamo appena visto su questo palco, io credo che per i loro figli, ma anche noi come adulti, quando vediamo i bambini, coltiviamo speranza per loro e pensiamo che la vita possa essere la più bella che si possa mai desiderare. E riusciamo ad avere un sacco, ma un sacco di speranza per questi bambini. E li vediamo crescere e li incoraggiamo a credere nei sogni, a realizzare le loro passioni. E si chiede sempre ai bimbi che cosa vuoi fare da grande? E loro dicono in genere cose straordinarie. E noi non è che diciamo a un bambino che vuole fare l'astronauta, cioè, di, non so, l'impiegato, l'operaio, da qualche parte. No, diciamo, wow, sì, l'astronauta! Questa cosa dura più o meno fino a 10-11 anni. Dopodiché introduciamo i ragazzini, forse già lo stanno facendo con voi, della seconda fila, nella realtà. Li introduciamo a quello che ho chiamato il circolo della disillusione. È un circuito che si entra e si esce quando la nostra vita finisce, è quotidiano, ma vi faccio vedere un attimo che cosa succede in ognuno di noi adulti. Un bel giorno ci svegliamo e ci rendiamo conto che ci sono le afflizioni nella vita e incominciamo a camminare in questo percorso. Però abbiamo la speranza che le cose possano cambiare e quindi con pazienza continuiamo a camminare nelle situazioni, nelle circostanze e andiamo avanti e speriamo che tutto possa cambiare. Ma per esperienza poi a un certo punto ci rendiamo conto di cosa? Che in realtà la realtà non è che cambia più di tanto, non è che le cose proprio migliorano, e con pazienza andiamo avanti, ma nel frattempo per esperienza capiamo che la nostra speranza è una speranza vana, è una speranza povera in forza, la motivazione incomincia a diminuire e io continuo a girare in quello che è un circuito, una linea chiusa. Afflizione, con pazienza viviamo le afflizioni. Per esperienza capiamo che le cose più o meno cambiano, a volte, nella maggior parte dei casi, non cambiano, la mia speranza va giù. Parentesi, non predicherò su questo, non disilludiamo le nuove generazioni. Se io adulto sono disilluso, io non ho nessun diritto di disilludere le nuove generazioni. Diamoli tutta la libertà di poter sognare e di poter avere speranza che la vita ha un senso ed è molto più di quel circuito all'interno del quale umanamente ci troviamo a camminare. Vi voglio dare una bella barra brutta notizia. Questo circuito che parte dall'afflizione, che cos'è l'afflizione? L'afflizione è un dolore, una sofferenza forte, ma è anche un disagio. È un non sentirsi pienamente nel posto giusto, nella situazione giusta, non riuscire a trovare una via d'uscita dalle situazioni e quindi il mio stato d'animo è appesantito. Questa è l'afflizione. Concordate con me che è quotidiana come cosa? Cioè, probabilmente non passa giorno dove non ci sentiamo un peso qui sopra. E con pazienza noi andiamo avanti. Come diciamo la parola pazienza davanti alle situazioni? Pazienza. Pazienza. C'è rassegnazione, c'è arresa, c'è sconforto. Ma questa mattina vi voglio dimostrare, sulla base della parola di Dio, quindi non per delle congetture mie umane, che quella pazienza in realtà ha tutto un altro senso. Ed è da lì che inizia la via verso il cambiamento. Il mondo creato, la creazione intera, geme è in sofferenza. La mia e tua afflizione non è qualcosa di legato esclusivamente all'area del personale. Io e te ci troviamo a soffrire, io e te ci troviamo ad avere afflizioni, perché il mondo intero soffre. È successo questo, che a un certo punto l'uomo ha deciso di separarsi da Dio, è andato in discordia con Dio. Loro che erano così, a un certo punto l'uomo ha detto no, basta. È stato l'uomo a deciderlo. Da quel momento l'uomo è andato in discordia con Dio e lì è iniziato il problema. Sapete la Bibbia come si esprime a tal riguardo? Ve lo devo leggere. Poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, questo è Romani 3:23, un po' prima c'è scritto, e poiché nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge, cioè per la morale, per l'etica, per essere delle brave persone, nessuno potrà mai essere giustificato per questo davanti a Dio, questo è il verdetto finale, si è messa a tacere ogni bocca e il mondo si è giudicato colpevole davanti a Dio. Se dovessimo chiamare un tribunale giusto a giudicare la condizione dell'umanità, questo sarebbe il verdetto. Basta, non hai scusante davanti a Dio. Noi, uomini, interi, uomini nel senso come umanità, siamo stati reputati colpevoli davanti a Dio. La mia e tua afflizione deriva da questo stato, dal fatto che l'umanità è sotto una pena. Sì, riguardano le circostanze del quotidiano, perché sono gli aspetti della realtà che noi viviamo, ma quello che ne deriva è conseguenza del fatto che io non riesco a vivere la mia vita in pace con Dio. Ma, e qui c'è il cambiamento, perché ho iniziato pesante, vero? Però andiamo, chi che ha detto sì? Mi piace che qualcuno ha detto sì. Ho iniziato pesante, ma c'è un ma che è grande quanto questo mondo, perché è riuscito a, in potenzialità, a colmare tutta la pena del mondo, tutta la condanna sul mondo. Ma Romani 5, lo leggiamo insieme, dal verso 1 al verso 2, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Ma se riconosci che Gesù è la via di accesso all'amore di Dio Padre, per me e per te si è aperta la stagione della grazia. Tanti qui fra di noi vivono la grazia, tanti fra di noi qui sanno benissimo di che cosa sto parlando, e parlarne con le parole io comprendo che è un po' difficile, perché è qualcosa che va fuori un po' la logica della nostra testa, ma il nostro cuore sa benissimo cosa significa che la pena che pesava su di noi, la condanna che era su di noi è stata tolta. Grazie a chi? A Gesù Cristo, al fatto che Lui ha pagato per me e mi ha condonato quella pena. Era una pena che mi schiacciava, era una pena che mi opprimeva, è una pena che mi teneva bloccato in una condizione di separazione da Dio. Ma riconoscendo Gesù Cristo, per fede io credo, tu credi di avere accesso alla gloria di Dio. Ed è una gloria particolare, perché è una gloria che parla di speranza. La speranza che noi possiamo avere, umanamente parlando, è quello che ci porta verso un miglioramento delle situazioni, delle condizioni umane, vero? Tutti sperano che le cose possano cambiare ed è sanissima come speranza. Però purtroppo, per esperienza, noi adulti abbiamo imparato il circuito di prima, che in realtà la nostra speranza, per quanto possa darci la forza e la pazienza di andare avanti, non ci assicura uno stato d'animo che non sia afflitto. Ma avendo avuto accesso alla grazia di Dio, io incomincio ad avere accesso ad una speranza più alta. E io mi glorio di questa speranza. È particolare questa parola. Alcune versioni della Bibbia usano addirittura il termine io mi vanto. Generalmente quando pensiamo a qualcuno che si vanta, pensiamo a persone superbe, persone un po' piene di sé. Allora, che dico? Che la Bibbia sta dicendo che dobbiamo praticamente comportarci un po' in questa maniera, del tipo, io vengo qui e dico, io sono salvato e tu no. No, non è questo tipo di vanto, i bambini fanno così. No, non è questo tipo di vanto che Dio e che la parola ci sta proponendo come stile di vita, e piuttosto incominciare ad avere opere, risultati, conseguenze pratiche del fatto che io vivo la grazia e la condizione sotto la quale io mi trovo non me la meritavo. È quello che devo elogiare, è quello che devo a cui devo dare onore. Io devo dare onore al fatto che, vivendo la grazia di Dio, io oggi riesco ad avere risultati pratici, concreti, che non dipendono dal fatto che io sono una brava persona, ma dipendono solo ed esclusivamente dal fatto che Dio mi ama e che Lui ha pagato quel prezzo per me. Nel momento in cui io e te lo riconosciamo, abbiamo accesso a quella grazia, a quel regalo, a quel condono. Ma l'Apostolo Paolo, a un certo punto, dopo aver fatto questa descrizione magistrale di che cosa può significare la giustificazione per fede e non per opere, va a toccare qualcosa che appartiene al livello umano. Torniamo al circolo iniziale. L'afflizione e la pazienza e l'esperienza e la speranza, ma la speranza incomincia a scemare e così mi trovo ancora nelle afflizioni e pazienza, vado avanti, ma l'esperienza mi parla di qualcosa che non va. L'Apostolo Paolo prende quel circuito che è prettamente umano e parte della realtà umana. Io credo che nessuno possa dire di non essere mai entrato in quel circuito. Forse in questo momento sei in quel circuito. Che cosa fa l'Apostolo Paolo? Dopo aver parlato della grazia e detto che ci gloriamo di questa grande speranza, del fatto che siamo stati giustificati e abbiamo pace con Dio, lui fa questo passaggio e dice: e noi sapete cosa continuiamo a fare? Continuiamo a vantarci, continuiamo a gloriarci anche di cosa? Lo leggiamo insieme. Romani 5, i versi 3 e 5. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Or, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. L'Apostolo Paolo prende la grazia in tutta la sua assolutezza, nei primi due versi che abbiamo letto. Poi prende qualcosa che è prettamente umano, che è a livello dell'umanità, quello proprio delle due dimensioni umane, e fa un collegamento. La stessa gloria che io riesco ad ammirare, che io riesco ad immaginare, alla quale io posso sperare di tendere, la gloria di Dio, a un certo punto lo stesso vanto viene utilizzato per vantarsi di che cosa? Di quel circuito della disillusione. Ma in realtà l'Apostolo Paolo, sapete cosa sta dicendo? Ci sta dando dimostrazione del fatto che quando la grazia arriva, quel circuito della disillusione può essere trasformato in un processo di cambiamento. La grazia non riguarda soltanto il peccato, non riguarda soltanto il fatto che Dio mi ha perdonato in quanto peccatore. Nel momento in cui Dio perdona i miei peccati, Dio pensa per me, così come la pensa per voi, un nuovo destino di vita. Dio pensa una nuova identità, pensa una nuova creatura. Il mio corpo sarà sempre lo stesso, ma il mio uomo interiore è completamente rinnovato e la maniera con cui io mi approccio alla vita cambia per conseguenza dell'opera della grazia sulla mia vita. Ma voglio entrare un po' più nello specifico con voi. Delle afflizioni, dei problemi non ne parliamo, ok? Perché sappiamo benissimo di che cosa stiamo parlando. Andiamo avanti, al passaggio numero 2. Voglio soltanto dire questo: attenzione a non concentrarci troppo sui problemi, concentriamoci sulle soluzioni, perché i problemi restano lì se ci concentriamo sul problema, concentriamoci sulle soluzioni. Umanamente parlando, abbiamo capacità di problem solving, ci possiamo adoperare in questo, ma siamo sempre un po' lì, alle capacità umane. Noi abbiamo accesso a capacità sovrannaturali, le capacità di Dio. E che cosa succede? Che mentre mi trovo nell'afflizione, a un certo punto la mia pazienza mi dà una spinta ad andare avanti. Ma non è quella pazienza di cui vi dicevo prima. Pazienza, va bene, andiamo avanti. No, è pazienza. Sapete la Bibbia che parola utilizza? Noi abbiamo tradotto in alcune versioni quella parola con pazienza, altre versioni la traducono con perseveranza. Il termine originario dice, significa starci, cioè stare dentro le situazioni con attitudine di colui che vuole continuare ad andare avanti senza perdere la speranza. È bellissimo come i termini, quelli greci, insomma, quelli originali utilizzati per poter scrivere la parola di Dio, abbiano in sé tutto il significato pieno. Pazienza, perseveranza, come utilizzata in quel verso, non è quella pazienza che noi utilizziamo normalmente, è pazienza. No, è io ci sto dentro le situazioni, con l'intento di andare avanti. Perché? Perché ho una speranza. Ho una speranza che Dio ha un progetto di vita per me. La sua volontà buona ha un progetto di vita per me. Lo abbiamo sentito prima per i bambini. Non è che ora Dio si è messo alla scrivania e incomincia a scrivere un progetto di vita glorioso per questi bimbi. No, Dio lo ha già pensato. Darà a questi bimbi l'opportunità di crescere, l'opportunità di sperimentarsi, sperimentare Dio, sperimentare il mondo, ma sotto la sua buona, accettevole, gradita volontà. C'è qualcosa che deve scattare. La pazienza, la perseveranza, si fonda principalmente su degli elementi chiave, ma di fondo ci deve essere una gioia. Dici, Luigi, dobbiamo essere felici del fatto che abbiamo le afflizioni. No. Credo che anche, Luigi e Dio, non dicano questo, non credono questo. Dio non crede che quando abbiamo un problema dobbiamo essere felici. Perché lui sa che cos'è la sofferenza. Dio è ben al corrente dei nostri stati d'animo. Lui sa che quando c'è un problema ci sale l'ansia. Lui sa che quando abbiamo una situazione pesante siamo sofferenti dentro. Ma a un certo punto la parola di Dio in Giacomo dice questo: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Giacomo qui scrive: considerate una grande gioia quando vi trovate nelle prove, nelle svariate prove. Ma di che prove sta parlando? Giacomo sta parlando della prova della nostra fede. Non sta parlando del fatto che se io mi spezzo una gamba, a un certo punto comincio a dire wow, mi sono rotto la gamba, grazie Dio! No. La Bibbia ci sta dicendo, e questa cosa è ripetuta più volte nella Bibbia, non sono versi singoli buttati lì come quasi a dire, beh, forse c'è qualche equivoco. No, la Bibbia ci sta dicendo che la nostra fede in quella situazione è messa alla prova. È un test. È un test per noi stessi, fondamentalmente. Dio già sa, conosce il nostro interiore, già conosce qual è la dimensione, l'entità della nostra fede. Non è che ha bisogno di venire a fare il test, vediamo un po'. No, è un test per noi fondamentalmente. Io in chi sto sperando? Sto sperando nel fatto che potevo essere più avveduto e quindi non fare quella cosa in maniera tale da evitare di fratturarmi una gamba? Potrebbe anche essere. Ma è ancora a livello umano. La mia speranza deve portarsi a un livello superiore. Ho fatto l'esempio di una frattura, che è un esempio banale, ma pensiamo alle circostanze, quelle un po' più complesse, quelle un po' più complicate, dove ci sentiamo schiacciati e dove la nostra fede incomincia a vacillare. La nostra fede, quella in Dio parlo, incomincia a vacillare perché incominciamo a pensare, io l'ho pensato e lo penso spesso e chiedo perdono per questo, Dio, ma tu ci sei? Io lo so che ci sei, ma hai visto? Ma io lo so che hai visto, e allora perché non fai niente? Come se lui non stesse facendo niente. Ma lui è all'opera. Lui è all'opera. Che cosa vuole che noi facciamo? Che siamo costanti. I versi di Giacomo dicono che la costanza permetterà all'opera di Dio di compiersi in noi in maniera completa, perfetta, affinché siamo in nulla mancanti. Cosa significa in nulla mancanti? Che non ci mancherà, che so, dei soldini in tasca, non ci mancherà un bel telefono? Relativamente. No, non è a questo che si riferisce la parola di Dio. Nulla ci mancherà della conoscenza della volontà di Dio. Avere pienezza della sua conoscenza nella nostra vita ci permette di poter vivere le afflizioni, di poter sviluppare in noi una pazienza che va nei termini di costanza e fermezza, e vedremo subito che cosa significano questi due termini, e per esperienza ci porteremo a conoscere la volontà di Dio. C'è un verso in Romani, sempre 12:2, che dice: e conoscerete la volontà di Dio, conoscerete Dio per esperienza, quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Per esperienza. Esperienza significa praticamente conoscenza diretta, personale, del fatto che io sto facendo con qualcosa, cioè so, o per uso, o per pratica, o per osservazione, apprendo qualcosa. Non puoi conoscere la speranza di Dio, non puoi conoscere la potenza di Dio se non la esperisci, se non la esperiamo. Ci dobbiamo mettere in quel circuito dove le afflizioni, non c'è bisogno anche di metterci perché ci troviamo, vogliamo o non vogliamo, in quel circuito, e a un certo punto, mobilitata in noi la pazienza, quella pazienza che si produce dal fatto che io sto sperando in Dio e non nella soluzione umana, per esperienza mi troverò a vedere che quella speranza che mi ha dato lo slancio iniziale mi sta permettendo di poter andare avanti, e non in un circuito piano, ma vedremo che ci permette di andare verso l'alto. Fermezza e costanza sono i fondamenti della perseveranza. Costanza nelle scelte che facciamo. Costanza nelle scelte nei confronti di Dio. Il fatto di aver scelto Gesù credo che non venga messo in ballo, ma le scelte che facciamo con e per Gesù. Che cosa succede? Poniamo degli obiettivi alti con Gesù e a un certo punto ci rendiamo conto che forse sono un po' troppo alti. E allora che facciamo? Beh, abbasso gli obiettivi. Li abbasso a qualcosa di un po' più accessibile. Mi porto nella zona di comfort del compromesso, perché la vita è già impegnativa. E mettermi ancora un ulteriore impegno nel essere costanti, nel perseguire gli obiettivi che mi sono posto con Dio, oh, è una fatica. Allora che facciamo? Ci abbassiamo a un livello un po' più basso. Fermezza. Fermezza significa stare fermi su un posto, fermi nella fede, nella fede della speranza che abbiamo in Dio. Se credi che Dio è onnipotente, se credi che Dio è potente da poter cambiare le situazioni, se credi che Dio ti ha giustificato e ti ha portato ad avere pace con Lui, e in quell'amore si rivela la sua buona, perfetta e accettevole volontà, dobbiamo restare fermi. Fermi significa non fare un passo indietro, significa non mollare, lasciare la spugna, significa non arrendersi, significa non pensare che per assurdo tutto quello che ci siamo detti fino ad ora sia una grande banalità. Quello è non essere fermi, essere vacillanti nella fede e credere, ma forse sarà. No, è, perché Dio è, e lo è quello che era, è e sarà. Ma c'è quell'è al centro che ti dice è, non è che è un divenire, è qualcosa che riguarderà il futuro. No, Dio è, e nessuno può cambiare chi Dio è. Nessuno può permettersi di dire che il sacrificio di Gesù non sia l'unica maniera e modo per poter ottenere giustificazione e pace con Dio. Sono io uomo, poi, che mi sposto da quella verità e decido che cosa farne. Ma quella verità resta in eterno, lì. Si tratta di cosa io ne voglio fare. Mi trovavo nell'afflizione, sono andato con pazienza avanti, però la mia pazienza non è più di quelle pazienze di arresa, di rassegnazione, ma è una pazienza che si riempie di perseveranza, di costanza, di fermezza, e per esperienza abbiamo detto: io conosco la volontà di Dio. E la volontà di Dio, sapete di che cosa parla? Parla di te. Parla del fatto che Lui ti ha scelto. Parla del fatto che Lui ha pagato un prezzo per te. Parla del fatto che sei stato chiamato a vivere oggi diversamente la tua vita. Sapete, quel circuito vizioso, il circuito della disillusione, per assurdo, può spostarsi dal livello piano al livello della multidimensionalità. Da un cerchio, sapete cosa può diventare? Un elicoide. Non è qualcosa che si mangia. Che cos'è un elicoide? Una scala a chiocciola. Se io continuo a girare sul mio piano, mantenete questa immagine, per favore. Se io continuo a girare su questo piano e a un certo punto la mia speranza non è più la speranza quella umana, la mia pazienza non è quella della sopportazione, ma è una pazienza fatta di costanza, di perseveranza, di fermezza. La tensione verso l'alto, la speranza, il punto luce, che come potete vedere è una luce che pervade tutta la scala. È un obiettivo, ma io lo vedo. Qual è Dio? È la speranza in Dio. E quella luce tocca tutta quanta la scala. Se io sento quella tensione verso l'alto e con perseveranza, con costanza, dato che per esperienza ho imparato quanto è buona e perfetta la speranza di Dio per la mia vita, la sua volontà per me, sapete cosa succede? Che decido di fare il passo e di non continuare su quel livello, ma di cominciare a mettere il passo. Definito il passo, incomincio, anziché ruotare semplicemente, incomincio a traslare intorno ad un asse, che è Dio. Non sono più a livello del circuito chiuso. Io e te siamo chiamati a salire, ad avvicinarci a Dio, ad incontrarlo un giorno faccia a faccia. Ed oggi già possiamo vivere quella speranza, perché quella luce già riempie tutta quella scala. Quella è la scala della vita, che pochi però decidono di salire e di scegliere. Perché? Perché siamo bloccati a guardarci in questo cerchio. Se definisci il passo da fare con Dio, la sua speranza ti permetterà di avere perseveranza in termini di costanza e fermezza, di mettere passi uno dopo l'altro. E quei passi ti permetteranno, ruotando, traslando, si dice, intorno a Dio, un asse, ti permetteranno di poter arrivare a comprendere che cosa significa quella speranza, di che cosa, in cosa consiste la volontà di Dio per te e per me, perché per esperienza lo impareremo, per esperienza lo vivremo e lo incominceremo a comunicare. Un circuito, quello della disillusione, sotto la grazia si trasforma in un processo di cambiamento. Siamo in una stagione particolare come Chiesa. Negli ultime 2 settimane ci siamo sentiti dire da Dio dell'importanza di porci degli obiettivi e dell'impegno che questi obiettivi ci richiedono. E l'impegno è pesante. E quell'impegno sarà pesante se la speranza che ci motiva a continuare in termini di costanza, nell'avvicinarci a Dio principalmente, nel portarci verso di Lui, nel considerare che c'è una volontà di Dio per la nostra vita, quell'impegno sarà schiacciante se non riconosco che quel percorso è il percorso di vita che Dio sta pensando e strutturando per me. La mia dipendenza da Lui deve essere totale, perché se a un certo punto, mentre cammino su quella scala, incomincio a dire pazienza, facciamoci sta scala, quanto è pesante, sapete cosa succede? Che quella scala si schiaccia di colpi, proprio tum, tum, tum, e a un certo punto ci ritroviamo in quel circuito. Non importa se hai fatto una scelta con Dio ieri, se la fai oggi, se l'hai fatta 40 anni fa. Quella scala ha questa tensione verso l'alto che è costante, ma con tanta facilità a volte perde piani. Perché perde piani? Perché è debole? No, perché io esco dall'attitudine del cammino su quella scala. Perché penso che l'impegno è un peso. Perché penso che l'impegno per gli obiettivi che Dio mette nella mia vita sono non propriamente consoni a quello che io avevo pensato per me. E lì perdo gradini, scendo. La scala incomincia ad accorciarsi. La distanza fra me e Dio si allunga di nuovo. Lo vedrò sempre, probabilmente lo vedrò come un punto focale, distante, lontano, che non sentirò più per me. Lui sarà sempre lì, in eternità, a sperare costantemente della stessa speranza del fatto che ci ha riscattati, giustificati, che ci vuole in pace con Lui. Ma attenzione a non fare della vita la prima prigione che ci tiene lontani da Dio. Se la vita è complicata, e lo sarà ragazzi, è inutile che ci diciamo che tutto cambierà improvvisamente. È un impegno la vita, la benedizione di Dio. Cioè io credo che qui dentro ci siano tante testimonianze del fatto che Dio è intervenuto e che le proprie esperienze negative sono state cambiate da così a così. Ma cambia una e poi ce n'è un'altra e poi ce n'è un'altra e poi ce n'è un'altra. E Dio farà un miracolo, farà un miracolo, farà un miracolo. Ma io interiormente, come mi approccio alla vita? La mia pazienza deve essere una pazienza che spacca. Non facciamo le preghiere del tipo la pubblicità facile.it, avete mai visto? Facile.it, facile.it. No, non sono quelle le preghiere che ci servono. Facile? Dimentichiamocelo. Le cose facili sono per, non so, per chi non vuole vivere, io credo. Scusatemi questa affermazione. La vita è un cammino, è una scalata, è una scala. Chi ha mai fatto più piani di scale con i fardelli dell'acqua? È un gran peso. Ma arrivi sopra, con le gambe che ti tremano, oppure metà scala e non ce la fai più. Quella scala non può essere salita con dei carichi, con dei pesi addosso. È troppo. È un impegno che Dio non ci chiede. È uno sforzo che Dio non ci chiede. Dio ci dice, lascia i pesi giù. Lasciali alla croce. Lascia quei pesi e incomincia a salire quella scala con costanza e perseveranza. Richiederà impegno, perché è comunque una scala, richiede passi, ma è una speranza, quella di raggiungere Dio, di viverlo in pienezza, che pervade tutto il percorso. Non è che un giorno lo incontreremo, lo abbiamo già incontrato, abbiamo oggi occasione di poterlo incontrare. Io e te siamo chiamati ad avvicinarci a Dio, a salire verso l'alto, e l'impegno che ci è chiesto è avere costanza e fermezza nella nostra fede, nel credere che la speranza che Dio ci ha rivelato è una speranza eterna che non può cambiare e che io e te abbiamo accesso a quella speranza tramite Gesù. E manca un piccolo elemento, lo Spirito Santo. Dio è Padre, Dio è Figlio, Dio è Spirito Santo. La speranza, Romani 5:5 dice, non confonde, e questo amore vi è stato rivelato tramite lo Spirito Santo. Tutto questo che abbiamo sentito questa mattina può risultare qualcosa di bello, ma prenderà senso, prenderà spazio, prenderà valore, trasformerà noi se diamo libertà allo Spirito di Dio di potersi muovere nel nostro cuore e trasformarci, trasformare la nostra attitudine, trasformare il nostro cuore. Io credo di avere davanti a me vite che decidono di passare dal circuito chiuso ad un elicoide, ad una scala a chiocciola. Passerai attraverso le afflizioni, ma con una pazienza che spacca tutto, perché la tua costanza e la tua fermezza sono fondate su Gesù e quella speranza la imparerai, la conoscerai per esperienza. Preghiamo insieme. Padre, io ti ringrazio perché tu hai a cuore la tua Chiesa, tu hai a cuore ogni singola persona qui presente e la benedici, la consoli in questo momento, la incontri in questo momento, la spingi in questo momento a incontrare te. Fondamentalmente io prego che l'incontro con te, l'incontro di questa mattina con te possa ricevere una nuova luce, possa essere illuminato in una maniera differente, che la vita che tu ci hai donato possa essere vissuta diversamente, vissuta con te, vissuta in pienezza, vissuta in fede, vissuta in costanza, fermezza. Grazie perché tu compi in noi la tua buona volontà e noi vogliamo darti la libertà questa mattina di poterla compiere in tutta la sua completezza, in tutta la sua perfezione. Grazie perché non ci rendi in nulla mancanti. Grazie perché la rivelazione che tu dai di te a noi è completa. E noi la vogliamo accogliere questa mattina, e la vogliamo fare nostra, e la vogliamo vivere come il punto d'inizio, ma anche il punto di fine del nostro percorso di vita con te. benedicici, Padre, e grazie perché ci ami e il tuo amore non ci confonde. Amen.